come diceva l'altro giorno che abbiamo incontrato al bar Leo Mantovani, è la liberazione finalmente. Cioè, noi volevamo proprio fare eventi dal vivo, e infatti proprio il 15 martedì facciamo il primo evento dal vivo, il bar al bar. Ci incontriamo al bar al Coco Café in via Guerratti 28 e incontriamo un po' di amici, colleghi, artisti e vari personaggi, insomma, anche del quartiere qui Santo Stefano, e finalmente riusciamo a fare un evento guardandoci in faccia dal vivo. Successivamente il 20 giugno realizzerete altri incontri, altri eventi per Atelier Chinotto, per cui tra l'altro è stata anche organizzata una call per giovani artisti. In cosa consiste questo progetto? Qual è l'intento della call? Allora, Rachele, innanzitutto volevo dirti che siamo felici di essere di nuovo qui, perché diciamo che Radio Città Fisico ci ha portato un po' fortuna, perché la prima intervista che abbiamo fatto, no? È stata proprio con te nel febbraio del 2021, quando abbiamo cominciato, sì, più o meno era febbraio. Quindi ecco, da lì le cose sono successe rapidamente, il progetto sta crescendo, quindi siamo felici. Cosa accade il 20 giugno? Il 20 giugno siamo negli spazi del DLF. In collaborazione con la Banana, che è un magazine di Vitelli. Esatto, in collaborazione con la Banana, per partecipare alla Fier Chinotto, che è una rassegna che premia i giovani talenti. Nello specifico organizzeremo una sessione di disegno dal vero, in cui 10 artisti emergenti, soprattutto dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, selezionati tramite la call di cui parlavi tu, si lanceranno, diciamo, in questa sessione di disegno dal vero, disegnando quello che guarderanno e osserveranno attorno a loro. Tutti i disegni alla fine andranno a costruire una installazione finale che a noi piace un po' definire come un reportage della giornata. Nel frattempo però, 4 artisti attivi nel sul territorio bolognese cosa faranno? Non solo bolognese, ma anche milanese, perché c'è anche Silvia Solas. Esatto. Sono 4 artisti che hanno pubblicato i loro disegni su questa artizzina che ti stavo dicendo, di disegni della Banana, e saranno posti nel nostro main stage praticamente. E saranno Martina Robert, Giulio Zanet, Silvia Argiola, come ho detto prima, e Alessandro Saturno, che esporranno questi 4 disegni nella parte principale. L'intento è sempre quello di, diciamo, costruire un po' un dialogo tra artisti che hanno comunque una storia, e che naturalmente non sono emergenti, e invece giovani talenti che si affacciano al mondo dell'arte, cercando di costruire questo dibattito, questo dialogo, che è un po' poi il fil rouge delle nostre room e di tutto il progetto. Tra l'altro, proseguendo avanti nel tempo, a settembre arriverà anche l'Art Motel Fest. Quali sono le iniziative previste per questi giorni di festival? Ci potete già anticipare qualche nome che sarà presente, qualche artista? Allora, la preparazione all'Art Motel Fest, che è, diciamo, il nostro evento di punta dell'anno, come diceva Dario, passa per una serie di bar. Perché diciamo, cerchiamo di unire un po' situazioni un po' più serie, di occasioni di riflessione, a momenti di svago, no? Per incontrarci, per confrontarci. E il primo evento sarà quello del 15, di cui vi parlava prima Dario, che si terrà in via Guerratti, in via Guerratti Lenti. 28. C'è bisogno di una prenotazione, quindi chiunque fosse interessato ci può comunque seguire sui nostri canali social, lì troverà tutte le informazioni. Cosa succede a settembre? A settembre saremo ospiti dei Giardini del Baraccano in 2 date, l'11 e il 18, e ci saranno 2 momenti comunque differenti. Nella prima data faremo un talk che avrà lo scopo di riflettere sugli esiti della pittura contemporanea, e avrà come ospite di punta Lorenzo Balbi, che è il direttore del MAMBO, il Museo d'Arte Contemporanea d'Arte Moderna di Bologna. Gli altri ospiti sono in lavorazione. Sono in lavorazione, sì, perché naturalmente c'è un po' di tempo fino a settembre, quindi sì, stiamo costruendo il parterre degli ospiti pian piano, però ci sono dei nomi che naturalmente non vi svegliamo, perché sarebbe tutto troppo svelato. Mentre nella seconda data, che è quella del 18 settembre, abbiamo voluto aprire le porte di Art Motel alla cittadinanza, perché organizzeremo una sessione, questa volta di pittura al vivo, pittura in plein air, negli spazi dei giardini del Baraccano, che però, sta bene. Però senza collo stavolta, libera partecipazione. Sì, sì, questa volta non faremo una selezione, ma l'invito sarà aperto a tutti, anche ad associazioni che si muovono, diciamo, in questo settore e che hanno voglia appunto di partecipare. Ma anche pittori della domenica, ragazzini, bambini, insomma, è aperta a tutti. Sì, sì, per questa occasione saremo più democratici, sì, se sì, vogliamo sì, dirla così. E la location, come ben sapete, si presta a un evento del genere, perché comunque chi si troverà lì potrà disegnare scene naturalistiche, guardare cioè, l'ambiente circostante, farsi influenzare dall'ambiente e dipingere liberamente. Dipingere, l'importante è dipingere, poi uno può dipingere quello che vuole. Alla fine ci sarà una mostra con tutti i lavori che sono stati realizzati e naturalmente il momento aperitivo, che abbiamo capito che i nostri eventi non può mai mancare.